lontano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore a tremar la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano suona, suona per me, pur se piango con te, o violino.